piatti, 20 euro un piatto, fate dai, lo so, però ho preso. Sì, ah, ti ho detto che questa gente molte volte rimane a bocca aperta, fanno certi pezzi che fanno schifo, perché tu dici, cazzo, poveraccio, me ne tolgo, cazzo, insomma, sacrifici per fare una cosa, non ci deve questi qua, cazzo, che non sanno neanche quanto hanno, guardano le fesserie, guardano. Parli, vede, questa gola che non sanno quanto hanno. Dopo ti mangi la roba dello spin, e quanto vale il gatto me li tocco in casa, no? Non te ne ha di regalare a te, no? Ne avrò. E vabbè, comunque i ricchi solitamente sono pidocchiosi, solitamente. Cazzo li vuoi fare? Ma io quando me ne ha di te, guarda, così così, mi voleva dare un tot al mese, non so quante ore. Ho tre conti che veniva 3 euro all'ora, ho detto, cazzo Edu, in una dice fasi 10, 15 visite a 150 euro l'una, 160 euro l'una, ho detto, cazzo. Bello sarebbe a mettere a lui a vivere con 3 euro all'ora, a vedere la vita di merda che fa morendo di fame, bastardi che non sono altri, e poi strozzano il piccolino, capito? Paga, anche i ricchi piangono. E a pianga già, non ricco che pianga la tia, il barrato che la gattene. Anche i ricchi piangono, povero. I ricchi piangono, e già è vero, ma la pianga su povero me la però. Sono vigilantes. Sono in pura banda, dai. Come te la tui, la sei fasciata, e va. Cosa? Una banda, come te la tui. Che importante non sia la mia. Distrutto. Ma cazzo c'è un nene che ti vuole dare da me? Che faccia un guru da te? Ma c'è il guru, mette buono. Ti usci la pesce tu? Come te la pesce tu, eh? Che mi lascia, fighiscio. Che... una scusa sarei superpotente. Ma la passa! O mi riparo! Che non me ne farò, aiutati a salvarti, metti i acciaffi, ghiscio. Avrei bisogno di fare al DN2. Te ne fai da qualcuno buro a te, cazzo, è una confusione, lo sai, quando un po' che muoio la macchinetta delle giaffe, cazzo, finta che non ti rilevo, non si ferma. Tira che c'è il pullman dietro, cazzo, eh. Ma mi dirà. Caparogero, occhio addrezzandoti che vai a gas a benzino, Antonello. Vado così, posso andare? Così puoi andare, ma occhio alla fiancata letta che vai a gas. Sì, dai. E mi faccio un nylon a base della che caccia di cipici. E no, via, a balacchera, e no, vai a fare questo muro su un nylon in terra. Ma è non è altro. Cosa deve far Tinni? Buco del muro devo fare. C'è la casa di pulizia, cazzo. Questa casa viene a frutti. Devi una visio. Ma che ora apre questo mazzucchilli, Piero? Ah? A che ora apre questo mazzucchilli? A che ora apre? Alle 5, alle 4, boh? Minimo saranno non prima delle 4. La caltezza è a metà della via. No, a piano terra, eh. Sì, dietro i pompieri o giù qua, giù là. Allora tu dovresti entrare dopo la S lì a destra, se non vuole sbagliare, ma lo trovi. Aspetta, Renato se lo ricorda meglio. Ah, quello materiale di lì. No, è solo idraulica questo. Aspetta, lo chiediamo a Renato. Allora giri dopo la ESO e vai verso su, verso Usilo, e lo trovi sulla sinistra, un negozietto piccolo, Volete, sono convinti che sei Marco, invece cazzo, sei Biggio. Aiù! Io i panni esci tu sei. Aiù! Yeah. Ah, e non sono stato trovato due chiusi, non devo giù posso mangiare, manco dentro i trigazzuri. Eppure non sono mai mancato agli appuntamenti. sono sempre dalle 6 in poi, 6 e mezza. A far Rogero, fate lunedì era dalle 6 in poi. Vabbè, non è mai il treno. A far Rogero. Spese, bambini, spese, chi, non ogni tanto di bene, ma devo prendere le squadrette, la colla, ho finito la colla, voglio vedere a fare la vita e fende i nomi. Come? No, che ne fare in diraria, io veloce prima che ne fa il vino. Cavava. Cazzo. Madre Piero, se sei in ascolto, cappa. Che ti ho ricevuto avanti il fischio, ma io che andiamo con Cernia, dobbiamo andare a Città Mercato, mi vieni? No, credo proprio no, adesso io parcheggio e me ne vado a Bida. Da fare andiamo a installazione ci abbiamo ancora. Ah, invece di farlo domani lo fate oggi. E quel che riusciamo a fare, così ne facciamo meno domani. Beh, è una cosa che fa anche bene. Su che fate è fatto. Sento, padre Piero. Eia. Io dovrò tornare magari a mettermi la cassa sul mio rimorchio. Tornare? Ma tieniti quello, se non ce ne sono casse. Ma non ce ne sono. Adesso vediamo cosa mi dice Maurizio. Non c'è nessuno qua, non c'è né Maurizio né nessuno, tutto chiuso. Di Marco se vi va? C'è Antonello che sta prendendo il cancello, è tutto chiuso. Di Morto è vuoto, uno sulla sinistra mi pare che è vuoto. Se non bagno non avvio. Oppure lo prendi e lo carichi al porto. Ce ne sono altre stazioni. Ma ce n'erano? Sì, non ce n'erano lì a destra o mentre. Sì, gatto. Io tira a sinistra, vai! Renato! Uia! Ma vai a caricarti il rimorchio tuo? Vabbè, penso di sì, boh. Lo so, se mi lascia questo, che cazzo dico? Non c'è nessuno. Sarà arrivando Maurizio, cosa ne so. Sì, vabbè, io mi pongo mio occhio, non ti faccio problema le batteri. E mettiti a fianco a me allora, così facciamo la coppiata. Sì, no, mi sto mettendo al centro. Sì, ma se c'è problema le batterie, mettiti a fianco a me, così te la carico io. Caparroggia. Vieni tankato, Barisanti, tutto tankato, Ma Renato. Via. Era il discorso di prima, no? Vengo sul vicino. Ora via, mi sono avvisato, è domenica, è Manzano, abiti se muovere mia dovrebbe essere, no? No, esco. E non perché devo comprare il pane fresco? Gli ho detto, se vuole, ho detto un po' il freezer, sicuramente ce l'abbiamo, ho detto noi. No, lui non ne mangia di quello lì, no? Ha detto, cazzo, pure scegliato, Dove l'hai detto, mi femmincia? Come ti ha detto lei, lo scegliato, l'ho preso, io volevo pane fresco in Manzano, ne me lo do un pareggio. Magna la rovrizza. Ma magari la vogliamo arrivare fino a posto. E non possiamo neanche effettuare il rifornimento allora.